Ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Un'altra settimana assieme, ritroviamoci, scrivete a cena@bacco.it o visitate www.bacco.it per vedere queste e tutte le altre puntate e restare in contatto con noi. Adesso iniziamo con la sigla. All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. E ragazzi, un'altra settimana all'House. Sono successe tante cose, ma succederanno ancora più cose di adesso, perché ricominciano le iniziative, ricomincia la partecipazione alla cena, quindi se volete partecipare potete farlo tranquillamente scrivendo a cena@bacco.it e parlandomi della vostra presenza alla cena. Chi può venire? Tutti assolutamente possono venire a partecipare, portano qualcosa da mangiare e partecipano anche loro da spettatori o a parlare della loro arte, di qualcosa di cui vogliono parlare pubblicamente alla cena. Ragazzi, potete anche venire a visitare l'House, sempre scrivendo il bacco.it, vedere com'è cambiata, come non è cambiata, cosa c'è di nuovo, cosa c'è uguale a prima. Niente, perché è totalmente rifatta. C'è il bug del cambiato. Io sono da rifare, ancora sono da rifare, sono aspetto l'aggiornamento 2014. E ragazzi, inoltre grandi nuovi video in arrivo, video virali, vogliamo partecipare a un po' di iniziative e quindi scrivete sempre a me, il bug.it, e proponete la vostra partecipazione. Adesso un piccolo spazio musicale e torniamo subito con l'angolo delle notizie. A che ora è finito il sermone? Ho dormito, mi sento più stanco di prima. La rosa vestita in pigiama ha un filo che pende, lo si conosceva per semplicità. Provatemi a sognare di cadere sulle foglie, no, però una volta son caduto veramente. E visto ieri è nato un'altra disputa inusuale, ci sa che va là sopra, sino a che qualcuno faccia, poi dopo si ricontano le facce dieci piedi. Intanto passa tutto e niente, quasi tutto è uguale. Progetti stanchi per i come pioggia, poi sulla nostra pelle quasi non bagnava. Nell'ultimo ricordo un orgasmo, poi rotto dal pianto di dover finire. La storia che racconta ogni nota per agosto mi sembra che cambiasse l'anno scorso sul finale. Va bene, fa lo stesso se non ti ricordi come. Mi spiace se non chiami più quando son sole, non stai bene nel tempo di gioire. Una mano stretta all'altra, poi le dita le ho vendute, sì, ma ad un prezzo onesto. Forza resta la colletta della spesa caponanno, firmeremo un sodalizio, forse durerà anche il pranzo. Se c'è sole scenderemo a luccicare della sabbia che conserva ancora dentro un cilindro con la data, testimone di un momento che ricordo ma non piango, sul biglietto GTM di un tragitto ormai scordato dentro il tacito consenso del mio verso amorale. Grazie per il libro letto, ti potresti rispecchiare della storia che racconta, per ascolta le parole come ci si para il culo ancora dietro una canzone. Ragazzi, da Cioè dei Regini, angolo delle notizie, iniziamo dall'Australia con una notizia veramente particolare. La Penguin Foundation, che ha invitato i suoi fan su Facebook a realizzare dei maglioncini. Sembra normale, se non fosse, questi maglioncini sono fatti per i pinguini. In quanto il progetto, anche la piccola provocazione, è quella di dare ai pinguini questi maglioncini per evitare che si vadano a pulire col becco le piume sporcate dal combustibile delle navi, e quindi muoiano in questa maniera. E poi inoltre da questa pagina Facebook è stato lanciato anche il concorso per il maglioncino più bello. C'è il modello all'isca di pesce, c'è il modello con la tipo S di Superman, però con la P di pinguino. Insomma, si sono scatenati. Penso, un maglione di un pinguino, come lo faresti? Col frac per seguire. Faccio il maglioncino con il logo degli Asking Alexandria. No, io invece ci avrei disegnato Batman per cattiveria. Perché giustamente ognuno quello faccio del Buck. Faccio il maglioncino per i pinguini con la scritta House of Buck. Oh, il pinguino col maglioncino del pinguino di Batman. Dove stava la battuta? Se non su con la scritta di Batman. Batman. Il Kinder Pinguino. Ma ragazzi, per le cose impossibili bisogna anche pensare a quelle possibili. Un ricercatore, uno scienziato? No, perché è un inventore, esattamente, Nicolai Lam, ha inventato la Lamilli. Cioè, la Lamilli è la Barbie che però ha delle forme da donna normale. Quindi che vuol dire? Che c'ha quel finino di cellulite, quelle grandezze un po' fianchi larghi, ha quella situazione un po' da fisico normale, che comunque potrebbe, come dire, ispirare le ragazzine verso una nuova forma di bellezza che non deve essere per forza quella statuaria della Barbie. Però a me sarebbe male. È giusto. E detto ce l'ho. No, è una donna normale. È normale, le donne normali non le tette. Certo. Che palle, il femminismo rovina sempre tutto. No, in pratica ha queste guanciotte un po' più paffutelle, questi fianchi un po' più larghi, cioè. Ma è giusto che sia è giusto che sia realistico. Sì, è da sposare. E io me la sposerei una Lemmini. Io mi sposerei un cuscino con sopra la ragazzina di Ma due tu non sei tanto normale, ecco. Ragazzi, comunque, no, peccato che almeno. Cioè, il fatto che ne prova la ragazza ha voluto trasformarsi in Barbie. Cioè, danno un calo di bellezza che è davvero esagerato. Nella normalità, cioè, alla fine l'aspetto normale, non va a cercare eccellenza, a far sentire una persona inadeguata proprio perché non raggiunge quell'eccellenza, è la cosa migliore. Il problema è che le Barbie vengono viste non da quelle ragazzine, ma dai ragazzini. Quindi io stesso sono cresciuto con l'idea della ragazza Barbie, cioè mia sorella che cresceva con la Barbie. Ah, vedi. E questa è una cosa molto molto negativa. Quindi la Milly sarebbe un messaggio ai ragazzini. Sì, sì, che dice non vi aspettate le Barbie. È bello, sì, questa addirittura è bella, non ci avevo pensato. Quindi regalatela ai vostri figli e ditegli che un domani si potrebbero beccare una cosa del genere. Ma comunque andiamo avanti con una grandissima invenzione, una grandissima sorpresa. L'Overboard Ritorno al Futuro esiste. Che si chiama HUVR, un filmato con addirittura Tony Hawk, il grande skater, sì, te l'avevo detto, e Moby, il grande musicista, dove loro si dilettano con questo skateboard che è quello È stato fatto apposta perché nel film Il Ritorno al Futuro andavano nel 2014 e loro per questo quest'anno hanno spinto per avere questo overboard. Presentato addirittura da questo Tony Hawk, che essere famoso a cosa porta. Però non è reale, purtroppo è un grandissimo fake, però è una cosa divertente perché è stata fatta per richiamare il film e comunque ha avuto un grandissimo seguito. Sì, pure perché hanno preso l'attore Lloyd, Christopher Lloyd. Ah, sì, Lloyd, eh. Io l'unica cosa che mi importa di dirlo veramente non ho fatto quando ho visto Lloyd che lo presentava. Lui che entra addirittura sulla macchina, sulla DeLorean del futuro. Però come è? Cioè, se fosse davvero possibile, cioè... Magari sarebbe. Cominciare bella... quello con le macchine. Sarebbe una bella rivoluzione, ma non accadrà. Un'altra rivoluzione che non accadrà è la fine dei film gratis in streaming. Chiusi anche questa settimana 46 siti web dalla Guardia di Finanza. La cosa bella è che la maggior parte di questi hanno già cambiato dominio, hanno riaperto. Esatto. Come se nulla. Come mai? Io sapevo che non è che a questo giro addirittura è stato il tribunale, è stata un'azione del tribunale, non tanto un'azione dei diretti interessati. Fatto... Ti dico subito: l'operazione Publifilm del nucleo speciale per la radiodiffusione delle teorie della finanza, diretta alla Procura di Roma. Anziché andare a prendere i soldi in tasca ai politici, lo fanno bene. Perché dovrebbe essere vietato guardare un film con una bassissima risoluzione. Quindi incentivarli per avere risoluzione. O comprarlo comunque scaricato. In HD, certo. No, ma secondo me il fatto è che è strano che questa decisione è stata presa esattamente a poche settimane dall'uscita di Infinity, che è appunto un sito dove c'è lo streaming a pagamento, quindi legale. Berlusconiano. È chiaro che questo che sia stato tempestivo la chiusura di tutti questi streaming. Ma pure io almeno immaginavo quando l'ho visto. Poi io, ah no, che strano! Beh, è chiaro che c'è anche un risvolto importante economico, c'è anche da dire che questi siti streaming riuscivano a collezionare un po' di soldini per, grazie alla pubblicità farlocca che mettevano, però chiaramente una cosa esagerata. Ah, di block. Aveva anche il cineblog per uno. Però che era subito quello è un altro che è tornato. Ragazzi, non si finisce mai alla fine di evolversi e di avere piccole rivoluzioni. Quando è veramente la fine, però, si possono scegliere anche strade un po' particolari per preservarsi. Ad esempio, anziché la solita tumulazione, è possibile diventare delle vere mummie come l'antico Egitto e costa solo 30.000 euro. Quindi questa ditta di Salt Lake City permette di la Summon Mummification Service, l'aperta doc, permette, grazie alle particolari sostanze chimiche, di essere mummificati. E inoltre permette anche di una buona conservazione, perché dice... Ma si tolgono anche gli organi interni, certo, che sono ancora vivo? No, perché loro invece di essiccarti, come facevano nell'antico Egitto, ti idratano grazie a queste sostanze chimiche e quindi resti anche ben conservato dopo migliaia di anni addirittura. Permettono. E c'è la versione per animali che costa 15.000 euro. Quindi se tu hai un animale a cui sei particolarmente caro, lo puoi mummificare, oppure quella del 30. 15.000 euro mi sento dentro la taglia, quindi anche un cavallo. Un elefante. Qua, ne dovete parlare con loro. Oppure 30.000 euro per la versione umana. E pensate che sono già state eseguite più di 25.000 mummificazioni. Ma sono io la trovo stupida come cosa. Io l'ho sempre detto a mio marito, quando morirai ti voglio in balsamante. Adesso balsamante. Adesso posso, no? Potresti essere un'opera per i prossimi libri. Sei morto! Ma potresti essere trovato dal futuro, non lo so. Oh, abbiamo trovato una mummia. Abbiamo trovato una mummia, un'altra. E scattiamola. Allora, come così. Ma, cioè, alla fine, noi ora studiamo gli egiziani, perché per la loro cultura, per quello che hanno portato. Ma guarda, se una persona che tra mille anni trova uno di noi mummificato, perché deve studiarlo? Per dire quando è meglio, Io già mi immagino mia madre mummificata così a mo' di canestro, io che ci lancio dentro le cartacce. Ciao mamma, ti voglio bene. Ed è proprio per immedesimarsi in chi non è più giovane, comunque per negli anziani, che c'è il simulatore che fa capire cosa vuol dire essere anziani. È stato realizzato in Gran Bretagna, è praticamente molto utile, una cosa fantastica. Un insieme di pesi, occhialoni, bastoncino e altri rilevatori che permette in un in pochissimo tempo di preparazione di arrivare a sentirsi ultra settantenni. Cioè, però fino a gara delle parole utili, guarda, non c'è bisogno, già lo so, perché... Replica problemi di vista e udito, difficoltà ai movimenti e tanto altro utilizzando questa attrezzatura. A me che pezzo. Pezza, così capirai cosa vuol dire essere molto che tanto. Fortuna! Così capirai come essere immobile. Ultra 70 anni, quindi giusto un bocciatino alla vista. Problemi di deambulazione. Perché uno deve prendere soldi per diventare vecchio? Per avere l'impressione di essere vecchio. E perché uno deve spendere soldi per avere l'impressione di essere giovane? Perché almeno nella mia invece di essere giovani. Perché il cielo è blu? Perché no, il mare è verde? Per immedesimarsi, quando tu maltratti gli anziani adesso sai cosa succede. Quindi posso maltrattare gli anziani e non sentirmi in colpa perché sono giovane. Fantastico! Ecco, non fate. Tu mi lasci perplesso ogni volta. Non fate. Non ti possono ricriminare nulla. Non tu fatelo dici? Ragazzi, ma adesso, bollino rosso, l'angolo delle notizie un po' più piccantello. Questa settimana è una grande, grande notizia. È stato inventato negli Stati Uniti da un chirurgo americano, Stuart Malloy, un dispositivo che permette con un piccolo telecomandino di attivare l'orgasmo femminile. Però... Quindi la donna si può sottoporre a una piccolissima operazione per inserire degli... un dispositivo sotto sotto pelle del gluteo e da lì a disposizione un telecomandino da attivare quando vuole e può avere il piacere così. Immagino sull'autobus. Tra l'altro Milo Manara ci aveva pensato con un famoso fumetto suo dove e intanto pozza di liquido. Voglio dire, una cosa particolare è fatto per le donne che hanno problemi un attimo da questo punto di vista e possono durante il rapporto aspetto un attimo, da una cliccatina e risolve tutto. Ma secondo me il proprio uomo cioè l'uomo della gente sarebbe tipo mortificato. Senti, non discriminare persone come me che hanno difficoltà ad eiaculare. Bastardo. Basta. Ognuno ha i suoi. Usa pure tu il Durexo come le donne, scusa, se hai difficoltà ad eiaculare. Hanno tutti i loro piccoli problemi. Ragazzi, invece di ragazzi, per risolvere queste piccole questi piccoli problemi, a volte basta andare all'università. Pensaci. Cosa? All'università, in particolare la Federico II, per festeggiare l'8 marzo alcuni studenti hanno fatto una piccola, diciamo, un incontrino all'università dove si sono un po' scatenati da questo punto di vista. Il tutto, se non fosse che è stato scoperto e registrato dalle telecamere dell'università, e quindi è finito su un sito di notizie dove descrivono la coppia e poi il fatto che fosse stato un festeggiamento particolare dell'8 marzo. Il commento, tra l'altro, forse di uno degli autori, è stato: è tutta invidia la vostra perché hanno avuto il coraggio di godersela sulle scale d'emergenza dell'università. Come dire, allora hanno fatto questa cosa. Ah, io addirittura sapevo che è stato un gruppo di ragazzi, un gruppo di femministe universitarie a proprio realizzare questo video amatoriale, proprio sono state, oltre a farsi filmare dalle telecamere di sicurezza, le siamo proprio filmate anche loro stesse durante l'atto. E se l'ho detto che il femminismo rovina sempre tutto, voi non mi credete. Ragazzi, l'università, quelle famose feste universitarie evidentemente esistono e quindi c'è la possibilità un attimo di avere questi incontri da sperimentare là, qualunque. Ragazzi, questa settimana lo spazio delle notizie che va a concludersi, passiamo a quello della classifica, ma non prima di un piccolo spazio musicale. You got a lot tied up inside. A boy that just won't fight. Baby, it's a grind. And this your bitter life, where nothing just won't do. The girl pleads, the woman needs a wedding ring. L'angolo della classifica questa settimana, superata la fase natalizia e vari bagordi, a meno che non veniate lo spiega la scena, è il momento di porsi una grande domanda, una spinta, diciamo, verso il viversano, verso soprattutto 10 motivi giusti per iniziare ad andare in palestra. È giusto, perché dopo che uno si lascia un po' andare, questa è la fase dell'anno in cui poi ci si ripensa e iniziamo a ragionare sui motivi per andare in palestra. alla numero 10 subito, quello più evidente, quello più il classico, per rimorchiare. Voglio dire, non c'è niente di meglio tra un po' di addominali, di esercizi vari, di fare conoscenza con una bella ragazza, magari palestrata anche lei, quindi in un certo senso. Sì, palestra, bicicletta. C'è gente che va in palestra appositamente per rimorchiare. Che ha conoscenze e sa che in quella palestra c'è frequenza femminile, quindi subito iscrizione diretta. Mi ricorda una scena di alcuni telefilm, cioè del figo di turno, di quello che va a rimorchiare, che va in palestra per andare a trovare quelle ragazze che vanno in palestra perché hanno una scarpa da team di 7-7, quindi cercano. Mentre io in palestra ci andrei solo per mangiarmi una pizza, esempio. Per far soffrire chi sta dentro, io mangio la pizza e loro. Ma e tu che ci fai qui? No, niente, sono passato a mangiare. Avete presente la. Come si chiama la palestra che sta nella città dell'industriale? Non me lo ricordo. Ho capito quale. Ma ci andavo io con la mia scuola. La Poseidon. Penso. Sì. Avete presente che c'è l'Alhambra più sotto? Sì. Sono sceso, mi sono preso il pugno dell'Alhambra, sono stato da Poseidon. C'è la vetrina in quella palestra, tempo fa, davanti a quella vetrina c'era la linea di ciclette. C'erano puntualmente le lardose sulle ciclette che cercavano di bruciare chili. Io mi mettevo davanti a quella vetrina, io e la mia compagnia di bastardi, a mangiare i panini davanti a quella vetrina. Tratto dall'Alhambra, pizzeria storica, perché i rustici devi prendere a due mani, perché sono veramente enormi. Vedi? Mamma l'Alhambra, mamma mia. Sfida sulla sfida, ragazzi. Alla numero 9, siamo direttamente a qualcosa di più particolare, le ferite di guerra, che comunque fanno sempre scena, cioè il fatto che comunque... tu ti provochi anche quella piccola lussazione, quello strappo, quella cosa, e poi puoi dire agli amici, alla ragazza di turno: no, oh, sapessi, oggi ho fatto 40 ripetizioni di... pensa che è scemo. Io invece sono stato morso da una medusa da piccolo, ho un ustione che sembra un'esplosione di granata, ma ho sempre detto che era un morso di medusa. Quindi io fino ad oggi sono stato stupido. No, effettivamente dare in avanti dirò che è un'esplosione di granata alla guerra a cui ho partecipato. No, io invece sono stato, dopo attività fisica, sono stato molto sincero. Mi fa male il culo perché ho fatto una scivolata di potenza durante il soft air. Dovevi prendere una granata a rilanciarla con il calcio. Sono ferite di guerra anche. E poi mi è finita a me, vedi, tutto è collegato. Ragazzi, alla numero 8, il motivo per cui andare in palestra potrebbe essere semplicemente rilassarsi. Cioè, capita anche questo, dici, la giornata è stata impegnativa, intensa, eccetera. Ma tu sgranchisci con un po' di cicletta, una cosina, no, a te non capita. Non ti rilassi, no, io sì, quante volte. Dipende. Magari tipo, ero ragazzino, mi facevo i compiti. E poi andavo in palestra e mi rilassavo lì. Ma dipende perché vai in palestra, se davvero vuoi ottenere risultati o meno. Perché se vuoi davvero ottenere risultati, ti spingi sempre avanti. Quindi dipende, è un po' stressante la cosa. Dipende anche da palestra a palestra. Io andavo in palestra per fare arti marziali, quindi andavo lì e il mio relax era stretching, prendere a pugni il sacco e picchiare altra gente. Adesso che ci penso non ho una concezione di rilassarmi. Dovresti pensare più spesso su come rilassarti. No. Cavoli tuoi. Prova la palestra, sto questo me. Ragazzi, al numero 7, abbastanza incredibile, però è finita in classifica, evidentemente c'è un grande appeal, guardare la TV. Guardare la TV durante il tapirulan, fare queste attività, c'è cioè la TV. Con la TV di oggi rilassarsi. Allora ci sono le persone che sono praticamente magari trovi i morti di fame che si chiudono nei bar per vedere le partite da Sky, e poi c'è quelli che invece vanno in palestra a guardarsi la partita su Sky. È vero, può essere un'alternativa salutistica. Abbiamo praticamente fatto l'upgrade. Alla fine tutti a fare il cincin con il bibitone di alfa e proteine. alla numero 6, ragazzi, questa può essere anche particolare, vestirsi strano, cioè un'occasione per vestirsi in maniera particolare, il look al limite del che un palestrato si può permettere, quindi la scarpetta particolare, andiamo a prenderti da medievale la canotta oversize e via. Andrea va partito col kilt. Sulla siglaggio sarà uno spettacolo. Tutti io me farei il tapio corona con la cotta e poi addosso. Ancora ci penso. Quando ero piccolo, stavo ancora da mio padre, andavo ogni tanto in palestra ed usciva a Forlì d'inverno. Forlì è un posto dove d'inverno o c'è il ghiaccio o c'è la nebbia, ma anche d'estate o c'è il ghiaccio o c'è la nebbia. No, lo chiamava il pezzo. Usciva di casa con questi pantaloncini super aderenti che mettevano in risalto non poco i suoi attributi maschili e andava facendo la sua corsetta verso la palestra con meno 5, meno 4 e ancora oggi si chiede perché si è preso una polmonite. Magia, è la magia del Natale. Bastardi con le battute. Quando si vuole esagerare a volte e esporsi un certo tipo di look capita anche questo. Ragazzi, alla numero 5, motivo per poter andare in palestra per alcuni è semplicemente ammazzare il tempo, cioè quei pomeriggi così per evitare il continuo attacco a Facebook e via dicendo, anziché passarli sui social, andare in palestra e cercare di fare qualcosa di particolare, magari utile per la sua vita sociale. Ma leggere un libro, magari. Ma più che altro io sono sicuro che anche in palestra ci trai quello col cellulare, ormai tutti i giretti hanno quelli che hanno con Facebook. Sì, magari un Candy Crush mentre sei sulla cyclette. Tranquillo proprio. Può essere detto perché sì, Andrea, non sei divertente, non sei goliardico, non sei ilare, quindi smetti. C'è stato e non sei Andrea soprattutto. Upgrade, infatti. Anche Andrea ha fatto upgrade. A tutti i problemi di palestra si è nascosto. Alla numero 4, ragazzi, incredibile, ma un motivo per andare in palestra potrebbe essere semplicemente drogarsi. Drogarsi in che senso? Però. Drogarsi con le sostanzine particolari. Però. Ad uso un nandrolone che comunque ti permette di dare il massimo in palestra, e per alcuni anche questo è un motivo per andare in palestra, quindi qua suggerisce alcune sostanze tipo la dopamina, queste sostanze qua, però sempre ovviamente suggerisce con controllo, sperando che questo accada. Beh, sono nuovi metodi alternativi per io che mi divertivo tanto con gli ansiolitici, gli antidepressivi. Stare a casa non dovevi andare in palestra invece, dovevi andare in palestra. Mi trascinavo per te. Esatto, perché alla numero 3, quindi in buona posizione in classifica, c'è proprio il socializzare. Quindi le palestre hanno questo vantaggio di essere comunque in un ambiente unicamente dedicato all'esercizio fisico, quindi comunque già hai una. Uno spunto per iniziare un dialogo, incontri altre persone. Già mi vergogno uscire di casa, già mi vergogno muovermi fuori casa con altre persone, figuriamoci a muovere relazionandomi fuori di casa con altre persone che loro stesse si muovono. Ma loro stesse non volevano uscire da casa, magari avevano gli stessi cose, quindi vi trovate su questo, cioè non lo puoi fare. Vicenda. Assolutamente, c'è un reciproco distacco. Cambi lontano. Devi vedere per quale di queste posizioni loro sono andati in palestra, quindi ognuno ha le sue poi prerogative. La numero 2, ragazzi, semplicissimo, semplicemente scolpirsi. Cioè quest'idea del fisico scolpito già verso i 20 anni dà fiducia, dà fiducia agli altri, fiducia a se stessi e ti fa sentire un po' più uomo, diciamo, macio. Ma chissà quale sarà stato il mio motivo. Ma rimorchiare. Non si sa. Non rilassati. Non si sa. E non si scoprirà mai. Però bisogna vedere fino a che livello scolpirti. Perché magari arrivare a giusto un accenno va bene, ma arrivare tipo a body citazione mia, Schwarzenegger, che proprio hai più muscoli, che cioè più grande il tuo muscolo che la testa, diventa un pochino tutto. Poi dopo avrai macchine stradali. Poi ci sono gli elementi che fanno ma quindi andavano alleate anche le gambe, Non lo sapevo. Le braccia mostruose. Tipo come sono gli scimmie, no, le donne occhi a terra. Le attiro molto vecchio. Sono Johnny Bravo. Esatto. Johnny Bravo. Balliamo tutti i monchi, dai. Imbarazzante. Alla numero uno, ragazzi, il motivo principale per cui bisogna andare assolutamente in palestra è vantarsi. Vantarsi, cioè quando durante una conversazione ti scappa quel discorsetto, questa cosa, ma sai che sì, sono andato in palestra, anche ho messo su qualche chilo muscolare. Non mi ricordo assolutamente nessuno. Io mi chiedo, ma quanto bisogna essere falliti nella propria vita per vantarsi di certi vizi? No, oppure i bambini su Facebook che con gli stati tipo mamma come si vedono i risultati della palestra, oppure sto andando in palestra. Bene, quando arrivi mandami un messaggio. Non mi importerà nemmeno quando arriverà il messaggio, ma nel frattempo mandamelo tu. Ma la cosa più strana è che hanno messo in questa, cioè alla fine hanno messo il mucchiere al decimo posto, sì, quando la bimbina secondo me più della metà va il prezzo praticamente per quello. No, ma sai perché? Perché si dividono anche quelle persone stesse, oltre a rimorchiare, vanno anche per vantarsi, è per questo che sta così in alto. E usi il vanto per rimorchiare. Cioè, esatto. Rimorchiare è una cosa, due, vantarsi, come puoi farlo con tutto il mondo. Tipo, cioè, con quello che sta pulendo gli attrezzi, sai, io quegli attrezzi li usavo tutti in una volta. Ti ho sfasciati quegli attrezzi a furia di... Di sollevamenti, di... Però questo bisogna pensare a quanto sia fragile l'animo umano, cioè vivere il fantastico. Quanto sia superficiale. Ma è per questo, ma è per questo che le persone vanno in palestra, sanno che l'umano è fragile. È fragile, cioè la vita, uno ha bisogno di queste cose, però con poi di questo intento. L'animo umano è fragile. Bravo, guarda, non lo saprà nessuno, complimenti. Bravo. Bravo, non è che lo dico io, lo dicono troppe persone. Ma ragazzi, la classifica di settimana, e voi qual è il motivo per cui andate o non andate in palestra? Scrivetelo a cena@back.it, non farlo, e ne parleremo settimana prossima assieme. Adesso un piccolo spazio digitale per le saluti. Oh, Ragazzi, questa è la Legione delle Regine anche questa settimana. Veniteci a trovare sul sito www.back.it e cena @back.it per chi vuole commentare o proporsi come ospite per le prossime cene. Mi raccomando, veniteci a trovare. Un applauso, ragazzi. Bisogno di tornare. A settimana prossima, ciao.